Lungo il viale va ripassando la sua lezione la studentessa. L'accompagna lo studentino che birichino d'amor le parlerà. Oh oh oh, sei fresca e velluzzata, hey, hey, dirà scandalizzata se l'avrà baciata lungo il viale. Che sospironi e che lezioni, ma senza il professore. Ma sa gli esami un batticuore muto il labbro farà, e non saprà il professore cosa dire, si sa che seccatura. Allora che brutta figura, che bella bocciatura. L'ambocciata, ma lo studente dal cuore ardente la sa riconsolare. Oh oh oh, con zero in geografia. Oh oh oh, con tre in filosofia. Che malinconia, ma nel diploma di mogliettina o studentina c'è la felicità, c'è la felicità, c'è la felicità. C'è la felicità. C'è la felicità.